Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Everest, quello da scalare per la squadra toscana. Higuain, 3-0. Ma sono stati molto bravi ragazzi, oggi non era semplice, faceva molto caldo, il campo non si stava in piedi, quindi abbiamo tenuto un buon ritmo il primo tempo. L'Empoli ha fatto una buona partita, abbiamo sbagliato qualche gol il primo tempo, abbiamo subito qualche ripartenza perché a un certo punto abbiamo un po' spaccato la squadra in due perché non riuscivamo a chiudere l'azione. Allo stesso tempo prendevamo un po' di ripartenza, abbiamo preso un paio di 3 contro 3. Il secondo tempo è stata un'altra partita. Dopo il gol direi è stato tutto abbastanza facile. Poi il numero da parte di Papu Gomez che poi va a cercare proprio Petagna in area. Petagna! Secondo gol consecutivo per Petagna, al nono minuto, l'Atalanta già in vantaggio. Finisce qui, il Napoli non risponde alla Juve, perde per la prima volta in campionato sul campo di un Atalanta che invece vince la seconda di fila e lo fa con merito dopo una prestazione davvero impeccabile. Finisce così, finisce con la Juventus che si prende la prima fuga della stagione, 18 punti in classifica più 4 sul Napoli che è caduto a Bergamo, lo avete sentito, gol di Petagna ma anche tanto altro, perché soprattutto la prima mezz'ora di Atalanta-Napoli è stata assolutamente dominata dai bergamaschi sul piano dell'organizzazione, del ritmo, con un Napoli diversissimo da quello che aveva incantato in Champions contro il Benfica, Napoli che poi nel secondo tempo ci ha provato in tutti i modi. A un certo punto Sarri ha anche inserito quasi tutte le punte che aveva, ha fatto giocare Gabbiadini insieme a Milik, c'era in campo Mertens, c'era in campo Insigne, ma non è stato sufficiente. Il Napoli ha perso a Bergamo e si ferma dunque a quota 14, questa sera potrebbe anche essere superato dall'Inter, se l'Inter vincesse all'Olimpico contro la Roma. E in ogni caso ci sono alcune considerazioni da fare sicuramente sul Napoli e certamente anche sulla Juve, che è un autentico rullo compressore. 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 19, quindi vi aspetto, oppure 349 238 6666 sms whatsapp. Ha già scritto un amico: sto aspettando con trepidazione i tifosi juventini delusi da Allegri, con un più 4 sul Napoli, con la miglior difesa e forse anche il miglior attacco. Li aspettiamo anche noi, eh? 800 24 00 24, Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Insomma, era in attesa la prima fuga così presto della Juve. Sì, perché io non pensavo che il Napoli perdesse a Bergamo, onestamente. Tra l'altro la partita non l'ho vista, sono tornato in macchina, ho commentato Empoli-Juve, l'ho sentito ovviamente alla radio, quindi chiedo scusa se non avrò insomma la percezione al 100% di quello che è successo a Bergamo, però il dato complessivo è che la Juve vince. La Juve vince anche quando non gioca benissimo. Il Napoli per vincere deve giocare bene. Questa direi che è la sintesi fra queste due squadre ed è il motivo che spiega l'apparente controsenso, no, dei complimenti tanti che il Napoli legittimamente si è guadagnato in queste settimane, ma di una classifica che dice già Juve più 4. Sì, abbiamo sentito Allegri, la Juve per il primo tempo non è stata straordinaria neanche ad Empoli, pur avendo giocato certamente meglio di quella di Palermo, però la sensazione davvero è che basti alzare appena appena il ritmo, e due terzi delle partite di questo campionato la Juve le vince, io non voglio dire facilmente, però sì, c'è una, no, ma puoi dirlo facilmente. C'è una differenza che è esagerata. Guarda, io mi stavo addormentando, a parte le battute, la partita non è stata divertentissima, diciamo, non lo è stata né prima né dopo la pioggia di gol della Juve. Alla fine del primo tempo la considerazione, ho guardato il mio prode di Gennaro vicino, gli ho detto 0-2, perché nonostante il fatto che la Juve non stesse giocando bene, però la superiorità è tale, e 90 minuti, se ti passi il gioco di parole, sono tanti. No, sono tanti, per cui alla fine la Juve il gol lo fa, la partita la vince, e, appunto, con due terzi delle avversarie. Il Napoli non riesce ad avere la stessa continuità, la Roma non riesce ad avere la stessa continuità, l'Inter non riesce ad avere la stessa continuità, almeno fino a questo momento. Ci mettiamo anche la Lazio che, come avevamo in qualche modo previsto, sta ritagliandosi un ruolo importante. È questo, insomma, il campionato è questo, francamente non c'è molto altro da aggiungere. Poi ti dico, è chiaro che una Juve non del tutto convincente, cioè si può anche pensare che magari in futuro con delle avversarie un po' più forti possa andare in difficoltà, però insomma intanto sì, possiamo anche provare ad attaccarci alla brutta reazione di Khedira al cambio, poi dopo sentiremo Allegri ci ha scherzato. Se vogliamo provare a tenere aperto... No, quelle sono tutte cose sane, la reazione di Khedira al cambio è la reazione invece che deve confortare i tifosi della Juve, e il fatto che la Juve non sia stata spettacolare deve confortare i tifosi della Juve, perché vuol dire che ha ancora un margine di crescita. Tu pensa a Higuain, Higuain passa oggi per essere un giocatore che ancora non si è inserito bene nei meccanismi della Juve, ha fatto 7 gol, sì. 6 gol in campionato, un gol ogni 65 sbaglio, minuti in campionato, esatto. L'anno scorso per fare il record è andato alla media di 1 ogni 83. Il percepito è che la squadra non gioca per lui, che ancora non si è inserito, che, capito? Quindi questo ti dà l'idea della superiorità della Juve su tutte le altre. Detto questo, non siamo schizofrenici, io continuo a pensare che il Napoli abbia dei valori di punta molto importanti, li ha dimostrati per esempio contro il Benfica in Coppa. L'altro giorno dopo quella partita avevo detto, ed è la mia sensazione a maggior ragione dopo oggi, che mi sembra una squadra più da Europa che da campionato, cioè mi sembra una squadra più da partita singola contro grandi squadre piuttosto che una squadra da regolarità, e oggi purtroppo per i tifosi del Napoli in qualche modo l'ha dimostrato. Questa è una squadra che comunque, al netto, per carità, gli episodi arbitrali, lo so benissimo che a Napoli Pescara e Genoa sono state vissute con polemiche, però comunque sia a Pescara il Napoli aveva sbagliato l'approccio alla gara, questo è un dato oggettivo, era sotto 2-0. Amarassi ha sofferto. E oggi adesso apriremo 80, il discorso 80 minuti per recuperare, eh. Io la provocazione è questa, ma se la Juve fosse andata sotto 1-0 a Bergamo, secondo voi perdeva? Secondo me no. Tra l'altro poi ne parliamo adesso dopo il traffico con Pierpaolo Marino. Prima però fammi andare a San Siro dal nostro Dario Ricci, col quale seguiremo Milan-Sassuolo che insieme a Torino-Fiorentina è una delle due partite delle 18. Un flash, Dario, per le formazioni, le ultime da San Siro. Sì, buonasera da San Siro, subito con le formazioni perché ci sono diverse novità, Giovanni. Milan in porta con Donnarumma, poi difesa a 4 con Abate, Paletta e Gomez a posto di Romagnoli che si è infortunato proprio negli ultimi minuti e quindi è sostituito da Gomez. De Sciglio a sinistra, a centrocampo poi Kučka, Montolivo, Bonaventura, con Suso a supporto delle punte che sono Bacca e Luiz Adriano, che quindi ha vinto il ballottaggio con Niang. Ancora maggiori novità nel Sassuolo che schiera in porta Consigli e poi la difesa a 4 da destra a sinistra con Lirola, Acerbi, Antei, Letschert, a centrocampo a 3 con Biondini, Magnanelli, Mazzietelli e poi davanti Politano, De Frel e l'altra novità a Giappong. Grazie Dario, torneremo da te tra qualche minuto per vivere questa vigilia di Milan Sassuolo. C'è il traffico 800 24 00 24. C'è chi dice esagerati, fuga più 4, esagerati, siamo a più 4 dopo 7 giornate in cui in tanti, anche noi in parte, abbiamo raccontato che la Juve è soltanto in fase di rodaggio, la Juve che è già la più forte di tutte. Traffico. Ragazzi, la fatica esiste, zio caro, la fatica assurdo. Pigel rosso. Tutti convocati. JP Morgan Asset Management vi presenta Tutti convocati. Invece era molto contento perché poi dopo Lemina ha fatto bene, entrando Lemina è stato decisivo nei 3 gol. Era molto contento. Chi era molto contento? Lemina o Khedira? Non abbiamo capito bene. Khedira perché ha alzato le braccia, come dire, finalmente. Ah, finalmente vi sostituite. Questo è il siparietto di Sky con Allegri che l'ha presa bene, però Però Khedira era arrabbiato, no? Stava assolutamente esultando perché per l'ingresso di Lemina. È un'ottima notizia, sì. A parte che mi risulta dovesse uscire Hernanes, almeno nel primo momento che ci stesse pensando Allegri, ma è un'ottima notizia che Khedira sia arrabbiato perché esce dal campo ad Empoli in una partita apparentemente banale, uno con la sua esperienza internazionale, è un ottimo segnale, vuol dire che ha voglia, e la Juve, come qualsiasi squadra al mondo, ha bisogno di gente vogliosa, quindi questo veramente non è un caso, cioè se uno pensa, se uno si preoccupa ovviamente in chiave Juve o si illude che questa cosa invece possa creare problemi, ci sia qualche sintomo di Juve, crisi, secondo me si sbaglia di grosso, perché questa è una cosa assolutamente positiva. Secondo me l'unica vera cosa è che la Juve non ha fino a questo momento un gran gioco, e questo però, come tutte le cose della vita, può essere vista come un bicchiere mezzo pieno, sì, mezzo vuoto, perché da un lato significa che potrebbe avere dei problemi più avanti con delle avversarie di livello superiore, però dall'altro secondo me significa anche che potrebbe crescere ancora, ci sono evidentemente margini di miglioramento. Scusami, ultima cosa, non dimentichiamoci il calendario, cioè il calendario della Juve comunque nel riaggiornato sarà un calendario molto più difficile rispetto per esempio a quello del Napoli, credo sia abbastanza oggettivo, e quindi c'è anche questo elemento. La Juve ha già giocato con l'Inter, con la Fiorentina, con la Lazio, con squadre comunque, con Sassuolo, con squadre di classifica medio-alta. Il Napoli riparte ad esempio sabato 15 ottobre, perché il prossimo weekend ci si ferma per la sosta, riparte da Napoli-Roma, che non è mai una partita banale. Saluto Pierpaolo Marino, direttore, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Cos'è successo al Napoli oggi? È il solito approccio fuori casa, cioè un Napoli che, se andiamo a vedere, ha fatto 4 partite fuori casa non assolutamente proibitive, perché ha giocato a Pescara, a Genova, ha giocato a Palermo e a Bergamo, ha fatto solo 5 punti. Un po' la caratteristica dell'anno scorso, cioè il terreno del San Paolo moltiplica le energie del Napoli, fuori casa cioè anche con le piccole squadre il Napoli soffre, e anche a Bergamo, per quanto l'Atalanta ha fatto una partita tatticamente ineccepibile, agonisticamente valida, però un Napoli come quello che conosciamo noi non può incontrare questo tipo di difficoltà. Però perdonatemi, vi leggo anche un messaggio che è arrivato 349-238-6666. Il Napoli ha perso l'umiltà. Sarri, queste partite che iniziano storte l'anno scorso le avrebbe raddrizzate a mani basse, oggi non succede più. Oppure ancora altri che ovviamente ironizzano sulla mancanza di Higuain, che a Bergamo, se non sbaglio, l'anno scorso la partita l'aveva vinta difficile, l'aveva vinta quasi da solo. Però volevo dire, mi sembra sorprendente e preoccupante al tempo stesso per il Napoli, se va in trasferta a giocare con la pancia piena. Scusa, io non sono d'accordo, perché non sono d'accordo con chi ha mandato questo messaggio, perché questa era una caratteristica del Napoli dell'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso si è giocato lo scudetto pareggiando a Carpi, pareggiando ad Empoli, perdendo 3-2 a Bologna, perdendo a Udine, cioè tutte partite fuori casa in cui il Napoli ci andava dopo essere stata prima in classifica da sola, con il vento in poppa, e poi faceva questo errore. Per me è una mentalità che manca, e forse in questo anche Sarri deve metterci del suo, perché la Juve ha un'altra mentalità, onestamente, lo dico con tutta oggettività. Yeah. La Juve, anche quando gioca male, come si diceva poc'anzi, giustamente, le partite non sono in discussione. Pier, io trovo incredibile che al Napoli manchi sempre l'approccio. E giustamente il direttore ricorda anche l'anno scorso, però poi Udine, secondo me, è una questione nervosa e vale un discorso a parte. Mi pare però che durante l'anno Sarri avesse in parte corretto questa cosa. No, ma ragazzi, ma sorprendente che torni quest'anno. Il Napoli ha fatto un grande campionato l'anno scorso, adesso poi Udine, per carità, a Udine l'ho commentata io quella partita, me la ricordo benissimo, sicuramente il Napoli sbagliò tutto, fra l'altro De Canio fece una partita fantastica, l'Udinese fece una partita fantastica. No, io penso che in generale il Napoli l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione e ha avuto l'unico problema di avere una squadra perfetta davanti a sé, e credo, temo per il Napoli, che sarà un po' l'affare di quest'anno, cioè lo so che poi alla fine ci annoiamo, forse stanno io gli stessi tifosi della Juve più incalliti, no? Quelli che perché io ho sentito per esempio Zampini qualche giorno fa che mi diceva che quasi preferirebbe un campionato un po' più incerto, perché sta diventando un rituale quasi noioso. Merito della Juve assolutamente, insomma. Torniamo al punto di partenza. Il punto di partenza è che la Juve, dopo aver vinto meritatamente 5 campionati di fila, è andata a comprare tra gli altri, sì, il miglior giocatore della seconda e uno dei migliori giocatori della terza. Sì, anche se non credo che questa sia la chiave oggi per spiegare le difficoltà del Napoli. Cioè, io rimango sulla mia posizione di 2 giorni fa. Oggi il Napoli ha giocato male, a prescindere dal fatto, certo, che Higuaín non sta più lì. No, però voglio dirti, è chiaro che la differenza poi tra una squadra, la differenza tra la Juve e il Napoli la fa la capacità di stare sul pezzo 38 partite su 38 che la Juve ha e che le altre non hanno. Detto questo, magari il campionato ci sorprenderà, però a me sembra che di fondo ci sia una squadra che è la più strutturata, la più solida, con la rosa più profonda. Il Napoli è cresciuto da questo punto di vista, dal punto di vista della rosa, anche se Sarri fino a questo momento... Adesso te lo faccio sentire, Sarri, faccio sentire anche a Pierpaolo Marino. Sarri, microfoni di Mediaset Premium. Non avete saputo rimediare anche per una grande Atalanta o perché c'erano un po' di uomini sottotono oggi? Abbiamo fatto una partita in cui abbiamo commesso più errori del solito, è evidente, anche nella fase di impostazione, nell'ultima scelta abbiamo sbagliato molto più del solito. La partita si è messa male per un episodio, non siamo stati neanche fortunati perché abbiamo avuto diverse palle gol, il portiere loro ha fatto benissimo, però abbiamo sicuramente un po' pagato di dispendio di energie nervose che abbiamo avuto in Champions, questo è evidente. A livello conscio l'impegno è stato totale da parte dei ragazzi, a livello inconscio probabilmente tante energie le abbiamo lasciate mercoledì. Ecco, la sua ultima dichiarazione sulle energie mi suggerisce questa domanda: ha un piccolo rimpianto per non aver magari cambiato un po' di più la formazione? Noi ci aspettavamo più cambi, ma noi, ovviamente poi è lei che vede la squadra. No, non avevo questa sensazione. Dal punto di vista fisico, i riscontri fatti ieri, l'altro ieri, erano di buon livello, ma quando ha speso tanto dal punto di vista nervoso il fisio c'entra poco e niente, perché la testa funziona a scartamento un po' ridotto e di conseguenza il fisio gli va dietro, ma dal punto di vista fisico i parametri erano ottimali per quasi tutti. Questo insomma Sarri, che dice forse avevamo speso troppo a livello mentale, non tanto a livello fisico, nella partita di Champions. Io non so che impressione fa al direttore Marino. Ma sì, diciamo, probabilmente però poteva essere fatto anche un turnover migliore, perché oggi Amsic, Allan sembravano giocatori spenti, insomma, quindi il Napoli aveva i ricambi per poter sostituirli magari dall'inizio. È sempre un po' timido Sarri a farlo questo turnover. Poi ci sono dei giocatori, il Napoli ancora ha ulteriori ricambi come Rog, Diawara, io non so che dove sono, che tipo di problemi abbiano, perché come rosa quest'anno il Napoli è addirittura meglio della Juventus, se pensiamo che ci sono giocatori che ancora non giocano e il Napoli comunque non ne sente la mancanza, almeno fino a prima della partita di Bergamo. Io non volevo abbassare il livello del campionato dell'anno scorso, io volevo dire il Napoli ha fatto un grandissimo campionato, per me avrebbe potuto vincere lo scudetto, è andata prima in classifica a giocare da sola, a giocare a Bologna penultimo e il primo tempo 3-0 per il Bologna, cioè è questo, il Napoli si deve interrogare sul perché fuori casa non ha mentalità. Perché in casa ha fatto 9 punti, in Champions League ha vinto in casa e volano in casa, fuori casa ha trasferte non irresistibili perché lo elencate, 5 punti su 12. Sì, è fuori casa che si butta un po' via. Grazie direttore. Prego. Ciao per Paolo. C'è anche un elemento. Grazie per Paolo Marino, sì. C'è anche un piccolo elemento ambientale che mentre lo dico quasi mi pento di dirlo perché mi spiace, però la mia sensazione è che in certi momenti l'eccesso di entusiasmo, l'eccesso di amore possa inconsciamente creare qualche problema. E questo è un discorso che secondo me vale storicamente anche per esempio per la Roma, per la Fiorentina, per piazze nelle quali non appena si intravede una grande squadra, il fatto di possedere una grande squadra, si tende, ripeto, assolutamente in buona fede, anzi in maniera molto bella, molto romantica, molto letterata, a esagerare forse subito con l'entusiasmo e con il calore. E questo inconsciamente qualche problemino lo crea. Sì, anche se siamo all'inizio della stagione, Pier, sì, me... siamo all'inizio della stagione, però è abbastanza impressionante, no? Che dopo una partita come quella con Benfica, in cui abbiamo visto una squadra meravigliosa, io stesso l'ho celebrata perché facevo la telecronaca e mi è piaciuta la matti e mi sono divertito come un matto. Insomma, poi magari inconsciamente i giocatori un filo di rilassamento ce l'hanno, ed è un tipo di dinamica che per esempio la Roma ha sperimentato tante volte in questi anni e che la Juve invece non sperimenta perché ha probabilmente meno pressioni dal punto di vista ambientale. Ce ne ha di enormi perché è la tifoseria più grande d'Italia, ma è una tifoseria diciamo più discreta, anche perché è una tifoseria meno concentrata geograficamente in una città, quindi non ci sono le radio locali, non ci sono le televisioni. Sì, si evita la pressione quotidiana. Non è che le radio locali, tanto scusa, fammi chiarire il punto, sennò poi si travizza. Non è che le radio locali non abbiano a cuore le rispettive squadre o facciano un cattivo lavoro, fanno quello che devono fare, cioè raccontare la passione. Però tutto questo forse alla lunga crea qualche problema, qualche eccesso che non aiuta. Questa è una, poi la partita di oggi magari l'avrebbe sbagliata anche la Juve, non sì, lo so. Sì, sì. Una squadra con Sicuro andate in crisi, Marassi e Bergamo sono due campi contro due squadre che quando stanno bene, e l'Atalanta oggi stava bene, così come il Genoa di due settimane fa, sono capaci di esprimere un calcio estremamente organizzato e intenso. Prima della pausa facciamo Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, 800 24 0024 vi aspetto, fino alle 19. Alessandro. Eccoci. Pronto? Eccoci Alessandro, prego. Sì, buonasera Giovanni e buonasera Pierluigi. Ciao. Allora, sono un tifoso juventino. Volevo fare una premessa, non sono d'accordo con la valutazione di Sarri per quanto riguarda il turnover, perché forse la differenza l'anno scorso tra la Juve di Allegri e il Napoli di Sarri, dopo lo scontro diretto di febbraio, lo fece proprio la profondità della rosa. Quindi forse avrebbe dovuto gestire meglio i due impegni, visto comunque la grande partita di mercoledì e la non brillante partita, perché l'ho vista quasi tutta, di oggi. Per quanto riguarda invece la Juve, penso che l'acquisto di Higuaín non sia indirizzato al campionato, anche perché sono convinto che la Juve potrebbe rivincere, come lo pensano tutti, il campionato anche senza Higuaín. E poi invece vedo un'evoluzione della squadra, perché secondo me ricomincerà a giocare con la sua amata difesa a 4. Un'evoluzione, quindi sì, ma anche oggi insomma l'ha fatto capire Allegri. Ci fermiamo, aspettiamo anche le altre voci degli allenatori, poi vi do le formazioni di Torino-Fiorentina, torniamo a San Siro. 800 24 00 24, torniamo subito. Tra poco, nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Il Sassuolo è una squadra tra le squadre migliori in Italia per continuità di gioco, per continuità di risultato e per conoscenza di giocatori, per quanto richiede l'allenatore. Voglio dire che non hanno bisogno di una settimana di allenamenti per preparare tatticamente una partita, perché conoscono alla perfezione l'idea di calcio dell'allenatore e sprecano anche meno energia per metterla in pratica rispetto ad altre squadre come il Milan, che ci stiamo adattando a un nuovo modo di giocare. Quindi è una partita estremamente difficile, oltretutto è un competitor e non deve trasmettere alla squadra, nella testa dei ragazzi soprattutto, che abbiamo dei vantaggi perché hanno giocato di giovedì. Queste le parole di Montella tra 23 minuti Milan-Sassuolo. Adesso andiamo subito a San Siro. Vi do le formazioni di Toro-Fiorentina. Torino con il 4-3-3, Art in porta, linea difensiva composta da Zappacosta, Rossettini, Castan e Barreca. A centrocampo Acqua, Valdifiori e Benassi. In attacco il tridente con Belotti in mezzo, Iago Falche e Boyer sulle fasce. Fiorentina 3-4-2-1, Tatarusanu in porta, Tomovic, Astori e Salcedo sulla linea difensiva. poi da destra a sinistra Bernardeschi, Sanchez, Badeli e Milic, e in attacco Ilicic e Borja Valero alle spalle di Kalinic. C'è Pierluigi Pardo, 800 24 00 24. C'è una dichiarazione di Sarri che secondo me è destinata a riaccendere il dibattito interno con il presidente De Laurentiis. Dateci un paio di minuti e ve ne rendiamo conto. Andiamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Eccoci ritrovati, Giovanni, con Furio Fedeli, inviato del Corriere dello Sport, che mi sente chiaramente anche per quanto riguarda le domande da studio. Beh, Furio, partiamo, sapevamo di tanti infortunati nel Sassuolo e quindi novità quasi prevedibili, invece un paio interessanti nel Milan, perché gioco forza, a causa di un infortunio c'è Gomez al posto di Romagnoli, e ti chiedo come questo potrà influire nella difesa finora, nelle ultime gare ermetica da parte del Milan, e poi davanti Luis Adriano che ha vinto il ballottaggio con Young. Beh, buongiorno, innanzitutto la difesa è rimasta intonsa proprio con la coppia Paletta-Romagnoli, i due si completano alla perfezione, Paletta un martello veramente importante per quanto riguarda la marcatura, molto bravo Romagnoli soprattutto nel rilanciare invece il gioco dopo che è finita la fase difensiva. Per quanto riguarda Niang è un avvicendamento che invece Montella aveva già progettato durante la settimana, proprio perché il francese ha denunciato qualche battuta a vuoto soprattutto a Firenze, e Luis Adriano è sicuramente più dinamico, c'è la possibilità, ma la vedremo in campo, di poter spostare Suso trequartista dietro appunto Bach e Luis Adriano, però attenzione perché Bach e Luis Adriano rischiano di pestarsi i piedi se giocano troppo vicini. Sì, ecco. Mi interessa capire da Furio Fedele, ma anche da Pierluigi Pardo, qual è la sensazione, qual è il mood del Milan, che paradossalmente battendo tra un mezz'ora il Sassuolo potrebbe arrampicarsi lì a contatto quasi con il Napoli, che è una prospettiva impensabile, Pier. Beh, il Milan è impensabile. È pensabile ragionando sull'estate che hanno trascorso. Sì, però voglio dire impensabile, ma i conti si fanno alla fine, il Milan sta mettendo insieme dei pezzetti, sta conquistando lentamente autostima, innanzitutto dalla fase difensiva, sono tre partite che non subisce gol, non gioca ancora un calcio strabiliante, però insomma mi sembra quantomeno che provi a giocarlo. Montella da questo punto di vista mi sembra fin qui meglio di quelli che l'hanno preceduto dal punto di vista proprio del tipo di gioco e del fitting, di come questo tipo di gioco si coniuga con un certo tipo di tradizione rossonera, che poi secondo me è stato quello che ha tradito Inzaghi e Mihajlovic più di tutto il resto. Inzaghi e Mihajlovic alla fine non è che fosse solo colpa loro, è evidente, perché ha fallito pure Allegri, non è che avesse fatto cose straordinarie, quindi non è che fosse chissà quale colpa loro, però mi sembra che avessero avuto in alcune situazioni un approccio diverso rispetto a quella che è la storia del Milan, rispettabile ma diverso. Montella invece sta provando a giocare un calcio molto rossonero, no? Ci sta provando con i mezzi tecnici che ovviamente non sono quelli del Milan di 10 anni fa, e questo secondo me è incoraggiante e sta piacendo. Poi insomma ragazzi, Milan-Sassuolo è l'ennesimo spartiacque, come si diceva una volta, nel senso sì, che poi, sulla carta è un confronto diretto, sulla carta, voglio dire, sulla carta può essere pure una partita che riporta tutto indietro. Capito, sì. Tutto. Sì, basta pensare comunque che il Milan nelle prime tre partite aveva collezionato solo 3 punti con la vittoria interna col Torino, poi aveva perso a Napoli e aveva perso soprattutto in casa con l'Udinese. Nelle successive 3 invece 7 i punti, quindi 10 punti, e in effetti vincendo arriva lì veramente in una posizione dove solo qualche settimana fa era impensabile, non dico arrivare, ma anche sognare. È un campionato ancora molto, almeno per quanto riguarda dal secondo posto in giù, perché la Juve ormai è partita e chissà quando la rivedremo, è un campionato ancora molto difficile da perlustrare. Forse Montella, che rispetto a ragione Pierluigi, che rispetto a Inzaghi e a Mihajlovic ha capito forse meglio il contesto in cui deve operare, quindi ha fatto di necessità virtù, approfitterà meglio dei suoi predecessori del fatto di non avere l'impegno infrasettimanale che ad esempio abbiamo visto appena penalizzato la Roma, ha penalizzato probabilmente anche questa settimana il Napoli, e potrà conquistare punti preziosi proprio a discapito dei diretti concorrenti. Attenzione, per il momento il sogno è l'Europa League, è meglio non andare oltre perché altrimenti rischi di prendere l'ennesima musata nel giro di quattro anni. Sì, corre il rischio che su cui poi si sono anche bruciate alcune delle possibilità di allenatori precedenti. A proposito, oggi Mihajlovic, ieri Mihajlovic ha detto: la storia dice che chi arriva dopo di me o è stato in una squadra prima di me fa peggio. Forse Montella sta cambiando questa tendenza. Fammi salutare intanto Furio Fedele che così lasciamo al lavoro a un quarto d'ora da Milan Sassuolo. Grazie Furio. Grazie a voi, grazie, ciao, buon lavoro. Prego. Dario Cotelli, evidentemente ci risentiamo invece certo. Ancora. Prego. Pierre. No, per chiarire, io penso che Mihajlovic per esempio sia assolutamente da Torino, nel senso che incarni perfettamente quel tipo di spirito, quel tipo di mentalità, è un fatto proprio di corrispondenza di amorosi sensi, di quasi. È un allenatore fatto per il top. Ecco, Montella è un allenatore teoricamente fatto per il Milan, da anni lo dicevamo, no? Che era, sembrava adatto, il famoso physique role, perché gioca un tipo di calcio che ha l'ambizione di essere un calcio basato sul possesso palla, sul controllo del gioco, e quindi piace molto secondo me. Inzaghi, che secondo me nell'esperienza al Milan sicuramente si è fatto le ossa e adesso sta facendo cose importanti a Venezia, gli auguriamo ovviamente una grande carriera, probabilmente era ancora un po' inesperto, in qualche circostanza si è fatto prendere dal panico, mi ricordo una sostituzione a Torino quando finì praticamente senza attaccanti. Queste qui sono cose che secondo me, se alleni il Milan, hanno un loro peso, e Montella dall'inizio, fin dalle prime amichevoli, ha provato a giocare in una certa maniera. Detto questo, io non sono affatto sicuro che oggi il Milan batta il Sassuolo. No, anche cioè, se penso Sassuolo che il Milan ha nelle gambe fatica e infortuni, no? Sì. Chiaro. Sì, sì. Dobbiamo fermarci per il traffico. Sì, ma questa è una totale mancanza di rispetto, perché io sono arrivato prima di Pierluigi Pardu e se volete far passare Pardu non c'è problema. Io sto qua 10 minuti come uno stupido. Sinisa, ma e la partita non si è possono tra, fare è queste fra un cose. Quarto d'ora. Sinisa, io sono arrivato prima, fate non passare non... qua per la intervista. Ci fermiamo traffico, poi parliamo a proposito di Torino Fiorentina. È tutto, non sono cerimonie ve lo date. Che la bacchetta magica. Traffico. Se tanto ce n'ha tanto. Famo tanto. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Domani diciamo che siamo chiamati a fare una prova di maturità, perché voglio pesare i progressi della squadra. Fiorentina forse è meno forte della Roma in qualche singolo giocatore, ma gioca in maniera diversa, è più attenta, crea molta densità a metà campo. Segnano meno rispetto alla Roma perché hanno fatto 5 gol, anche se hanno un potenziale offensivo uno dei migliori in Italia, ma è anche vero che subisce molti meno gol. Una squadra che ha preso, credo io, un allenatore all'immagine della cultura della società e la cultura della piazza, che cerca efficienza e efficacia nel suo gioco. Corre pochi rischi, lavora tantissimo, di conseguenza transizioni offensive molto forte, per questo dentro di quello che noi e i nostri grandi principi di gioco, che è un calcio propositivo, un calcio dove cerca di controllare tutti i momenti di giochi. Hai sentito Pierre? Paolo Sosa d'accordo con te. Hanno scelto un allenatore perfetto per la piazza di Torino. Ed è questo, Sinisa Mihajlovic. Saluto anche Araldo Pecci, che di Fiorentina e di Torino un po' se ne intende. Ci ha giocato, sì, credo, una decina di anni divise tra le due squadre, no? Oltre allo scudetto straordinario del Toro del 76. Araldo, ti piace questo Torino? Ti piace Mihajlovic, allenatore di questo Toro? Ma quando è arrivato ha capito dove è capitato, ha detto le cose giuste, poi dopo la squadra ha cambiato modo di giocare e onestamente a me piace di più vedere questa squadra che non quella dell'anno scorso, dove si passava molto tempo a darsi la palla di traverso per il campo in maniera orizzontale invece che verticale, che delle volte insomma passavano delle mezz'ore che ti veniva anche la biocco per... Io preferisco questo modo di giocare, i risultati diranno, non so, quello sono la ricerca, ma io vedo più volentieri una partita con le squadre che cercano di farsi gol facendo dei cambi lì di fronte, come è successo per esempio in Torino-Roma, perché Torino-Roma è stata così, attaccava il Toro, attaccava la Roma, poteva fare con la Roma, poteva fare con il Toro, però almeno uno che vede una partita se la gode, voglio dire, sì. Se no ci sappiamo per vero. Quindi Pierluigi aveva ragione il pubblico di Torino che non ne poteva più di Ventura. No, non aveva ragione. Come la pensate? No, Ventura ha fatto belle cose a Torino, dai, adesso non scherziamo. No, ma negli ultimi mesi. Ma negli ultimi mesi il calcio è liquido, anche l'anno scorso ha fatto cose belle, cose meno belle. Bisogna, pure noi dobbiamo cominciare, soprattutto quando l'esperienza dell'allenatore dura per parecchi anni, a valutarla nel complesso. E Ventura ha fatto molto bene a Torino, l'ha riportato in Europa, ha fatto delle cose molto molto importanti in questi anni, quindi no. Quindi secondo me il bilancio è molto positivo. Eraldo? Ma vedi, io non... Un po' ingeneroso i tifosi del Toro. Comunque... Ma io direi che Ventura ha fatto il suo lavoro, in Europa c'è andato perché non si è iscritto a un'altra squadra, non perché c'è arrivato, ma è come dire, come se Conti dicesse la Juve quando l'ho presa era in B, voglio dire, il Torino è il Toro, il Torino è come la storia del calcio, e tu mi dici... No, Roma è perché è sporca, Roma non è una città decente, ma perché c'è Roma capitale, ma Roma è la capitale del mondo, della cultura, voglio dire, per cui bisogna vedere anche l'habitat in cui sei per poi andare a parlare dei risultati. Sì, insomma, però è anche vero, almeno questo è il mio pensiero, che poi se quest'anno raccogli i frutti con Belotti, con tanti ragazzi italiani su cui si è investito l'anno scorso, magari bisogna anche avere il tempo e la pazienza, la mezza stagione, la stagione per aspettarli. Ma non c'è dubbio, anche beh, poi bisogna anche avere, secondo me, visto dall'altro punto di vista, no? Che se vinci due campionati in primavera, arrivi secondo in un altro e non gioca nessun ragazzo in prima squadra, anche lì bisogna discuterne, insomma, no? Per cui è successo questo negli altri anni, per cui è un discorso lungo, io non mi metto il pro e contro, dico solo che il Toro ha delle caratteristiche, no? Il Toro deve far giocare i ragazzi nella Philadelphia e poi se fai un punto in più, un punto in meno non è sostanziale perché il campionato non lo vince. Belotti è pronto per una grande? Mi rispondete tutti e due, Eraldo e poi Pierluigi. Scusa. No, Eraldo, prego, poi Pierluigi parla. Per me Belotti sta crescendo molto, è un ragazzo sul quale si può contare, perché oltre ai risultati tu vedi che ha la disponibilità mentale, uno che va avanti e indietro se sbaglia non si preoccupa, è uno pronto per crescere, è uno di quelli su cui vale la pena di puntare. Pier? Belotti è pronto, no, sul discorso di Ventura io penso sì, è vero che c'è andato perché il Parma ha avuto un problema economico, però è anche vero che l'ha onorata quell'Europa League facendo molto bene, la famosa impresa di Bilbao, ha fatto bene anche con lo Zenit. Insomma, io penso in generale che si debbano valutare le situazioni sempre in complessivo. Complessivamente, secondo me, Ventura al Torino ha fatto bene. Poi è ovvio che il Toro è abituato, ed Eraldo lo sa benissimo perché è stato parte di quella storia, il Toro è abituato a cose grandiose, quindi è chiaro che tutto quello che si è vissuto negli ultimi anni è comunque una diminuzione rispetto alla storia gloriosa del Torino. Però è anche vero che viene dopo una serie di anni molto complicati, è un po' lo stesso discorso che si può fare per quanto riguarda il Napoli. Comunque De Laurentiis sta riportato da una dimensione di Serie C a essere una grande protagonista, e insomma ci vuole sempre, secondo me, un po' la capacità di contestualizzare. Poi alla fine vince una, non è che vincono in sette il campionato o vanno in Europa in 15, e quindi insomma bisogna anche godersi un po' le cose quando vengono, sì, fuori. Belotti è fortissimo, credo che sia scusa, vai Eraldo. Ah no, dicevo che quando viene da una guerra c'è da ricostruire, è troppo facile trovare lavoro quando viene dalla guerra, voglio dire, chiaro che se le condizioni sono di macerie puoi fare solo bella figura anche se fai una colonna. Certo, tu dici il salto lo doveva fare dopo, insomma, bene l'inizio e poi è mancato. Senti, ma sei d'accordo con Ciccio Graziani che ha detto che Belotti è il suo erede, lo ricorda? Secondo me lo ricorda, così come ricorda Immobile, così come ricorda Giorgione Tinaglia, così come ricorda altri giocatori, adesso per fare i paragoni forzati, perché io non ho mai amato i paragoni, però se dobbiamo accostarlo, sì, Ciccio all'inizio era un po' così, girava per il campo, quando giocava a Rezzo, girava per il campo, poi arrivava lì, faceva gol, era scarso di testa, si è messo lì, si è migliorato moltissimo, è diventato fortissimo anche di testa, e questo va a merito di una forma mentale che, se anche sei bravo, devi cercare, anche dove sei meno bravo, di migliorarti, non accontentarti di quello che hai. Per cui vedo in Bellotti un percorso che sta facendo come ha fatto Ciccio. Sì, difficile che Mihajlovic ci litighi. Mihajlovic, che è uno molto pretenzioso, soprattutto con i giovani, l'impegno, l'applicazione e la voglia di migliorare. Grazie Eraldo Pecci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Eraldo. Giovanni da Ragusa. Giovanni, ci sei? Sì, buonasera. Aspetta, Giovanni, perché adesso abbiamo il GR delle 18, però ti richiamiamo subito dopo, ripartiamo da te. Fammi salutare Pierluigi Pardo. Ciao, ciao Pier. Ciao, buone partite. Ci sentiamo domani, ciao. Dopo il GR ciao. Delle 14. Sì, a Sparta voglio sempre vincere. Sì, sì, ma stasera c'è Roma-Inter. Con stasera. Filosofia... dobbiamo migliorare. Ma questo è il nostro Frank De Boer. Però è finita da due giorni. Ma giochiamo come sì. 8-0-0-24-0-0-25 sì. Dilettanti, ha detto. Dilettanti. Sì, torniamo dopo il GR delle 18. Milan-Sassuolo, la vigilia di Roma-Inter, Torino-Fiorentina, insomma tutto. E anche la Formula 1 che sì. Oggi ci ha regalato grandissime emozioni. Ah, sì, sì. Noi siamo in Italia, io siamo in America. Tutti convocati. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Convocati. La Juve è di un'altra categoria e sta facendo il campionato da squadra di un'altra categoria. Noi a livello di squadra non abbiamo assolutamente mai avuto l'idea che il nostro campionato dovesse essere in parallelo con la Juventus. Quindi noi siamo una squadra giovane, una squadra che deve crescere. Questo Sarri che dice la Juve è di un'altra categoria, noi non abbiamo nemmeno mai pensato di fare gara con la Juve, siamo giovani e dobbiamo crescere, chissà cosa ne pensa De Laurentiis. Sarri che dopo partita di Bergamo, Napoli sconfitto 1-0, gol di Petagna, un po' nervoso, ancora ai microfoni di Premium. Quindi se la Juve è di un'altra categoria e lotta per lo scudetto, voi no? Ma se loro inanellano una serie di cazzate mostruose può darsi di sì, ma loro solitamente non fanno cazzate. Penso siano la società in Europa e ne fa meno. Quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi e anzi ti dirò di più, è l'ultima volta che rispondo alla domanda sulla Juventus. E invece ho l'impressione che ne avrà ancora tante. Siamo intorno all'ottavo minuto a San Siro, 0-0 tra Milan e Sassuolo, al decimo a Torino, 0-0 tra Toro e Fiorentina. Ci andiamo tra un istante. A San Siro intanto Giovanni da Ragusa. Giovanni? Sì, ciao. Eccoci. Giovanni. Allora, tifoso del Milan, nonché presidente del Milan Club Niccolò Carosio di Ragusa Ibla. Complimenti. Allora, oggi non avete affrontato la trasferta a San Siro? No. No, perché lontanuccio. Conosci Ragusa Ibla, città barocca? Sì, sì, bellissima. Allora, visto come sono conciate Napoli, Roma, Inter, non credi che il Milan possa vincere? No, vincere magari, arrivare secondo in campionato? Io credo, intanto il Milan sta... Aspetta lì, Giovanni, andiamo subito a San Siro. Dario? Sì, non un minuto di gioco, il Milan è in vantaggio. Il Milan è in vantaggio grazie a Jack Bonaventura, una bellissima percussione del centrocampista rossonero, lo scambio al limite dell'area e poi un destro che ha sorpreso Consigli, decisamente incerto su questa conclusione potente ma molto centrale, l'errore del portiere decisivo, ma bella l'azione di Bonaventura che ora riceve l'applauso e il boato di San Siro. Nono di gioco, Milan 1-0. Credo ci sia stata anche una deviazione di Acerbi davanti, che ha spiazzato il portiere del Sassuolo. Consigli, Giovanni, beh, la risposta io credo stia nella classifica in questo momento, classifica che dice che il Milan in questo momento, siamo solo all'inizio di Milan-Sassuolo, è lì, potenzialmente terzo in classifica, un punto dal Napoli. E se la gioca con l'Inter, con la Roma, con la Lazio, con tutte le altre, beh, io ho l'impressione che se davvero le altre squadre faticano a trovare una continuità, una coerenza di rendimento, ed è quello che stanno facendo, anche il Milan può in qualche modo pensare di inserirsi in discorsi europei, Europa League o magari anche qualcosa di più. Andiamo a San Siro allora, che ci facciamo raccontare questi primi 10 minuti per bene da Dario Ricci. Dario, è arrivato il pareggio del Sassuolo con Politano, che si è incuneato nella difesa rossonera, che ha immediatamente risentito dell'assenza di Romagnoli, direi, Giovanni, perché bravo Politano, sì, poi a tagliare in diagonale verso destra, a presentarsi a tu per tu con Donnarumma, ma grave anche la disattenzione almeno dei due centrali, Paletta e Gomez, che proprio oggi sostituisce l'infortunato Romagnoli. Quindi siamo all'11° di gioco, appena 1.5 minuti è durato il vantaggio del Milan, perché alla rete di Bonaventura, agevolata dalla deviazione di Acerbi, ha risposto pochi istanti fa all'11° Politano per l'1-1. Sì, incredibile l'errore di Abate, retropassaggio lento in mezzo che ha di fatto liberato Politano per la conclusione, i due centrali erano un po' fuori posizione, però mi pare che l'errore originario sia certamente quello di Abate, che è andato molto molle, non prendeva gol da 3 partite il Milan, e quindi si interrompe questa striscia positiva. Intanto ancora 0-0 all'Olimpico di Torino tra Torino e Fiorentina, siamo nel 13° minuto e si è vista soprattutto la Fiorentina in questo avvio di partita, pericolosa in un paio di occasioni e soprattutto con una discesa di Bernardeschi sulla destra, Bernardeschi che è arrivato fino in fondo ed è stato murato da Castan, palla in calcio d'angolo, ma Bernardeschi che avrebbe avuto probabilmente un paio di opzioni all'interno dell'area di rigore per provare a dare uno sviluppo migliore all'offensiva della Fiorentina. Ci sono messaggi 349-238-6666, c'è chi scrive che per una volta Sarri non dà colpa all'arbitro, chissà perché, perché onestamente oggi l'arbitro non ha avuto alcun episodio complicato, quindi non è un tema oggi. C'è un amico che contesta che la rosa del Napoli sia migliore di quella della Juve. Capuano, perdonami, ma devo dire cucù, e il Napoli non c'è più. Oddio, certamente 4 punti di distacco non sono una sentenza perentoria e definitiva, però non dicevano che con Milik il Napoli si era rinforzato, che cedendo Higuain avevano fatto un affare pazzesco, ma non diciamolo neppure per scherzo, non diciamo panzane grottesche, dai, non sarà mica che rubare le offerte a San Gennaro Portiella, dai. Perché? Chi è che ha rubato le offerte a San Gennaro? Ma non sei aggiornato, Capuano, sono situazioni che aborro, è una guerra psicotica, un ragionamento criminale, Ci fermiamo, c'è il traffico, c'è già un ospite graditissimo in collegamento, Ottavio Bianchi, che coinvolgeremo sul Napoli, ma non solo, perché alle 20.45 stasera c'è Roma-Inter, 1-1 Milan-Sassuolo, tutto in pochi secondi, Bonaventura e Politano, 0-0 Torino-Fiorentina. Traffico, torniamo subito. Pam, pam, pam, pam, pam. Tutti convocati. JP Morgan Asset Management vi presenta Tutti convocati. Non voglio vedere un atteggiamento come abbiamo giocato contro Praga. Era solo per me un cosa di atteggiamento. 4 amici che ci toponano giù, da mercoledì non ti si vede. secondo me è giusto non dare vantaggio a una squadra già forte come quella dell'Inter, per cui la formazione non si dice. E anche qui purtroppo poi si passa dal fatto che a giugno volevate fargli fare il tour dell'ultima partita in tutti gli stadi. Senza troppa voglia ordiniamo un dream. Tutti i miei giocatori devono capire che il social media è molto importante, però molti pericolosi, e per me deve capire quando da usare. E voi perché fate quelle facce lì? Perché non viene dato poi valore agli altri per le stesse situazioni che gli altri poi sviluppano, che sono altrettanto importanti per il resto della squadra. Per questo e basta, è sempre per la crescita della squadra, per rafforzare quella che è la solidità mentale che deve avere una squadra. Senza averti qui, senza problemi, senza limiti, non è così bello come dicono. Senza averti qui. Spalletti, che ha passato ieri metà della conferenza stampa a parlare di Totti, prevedibile. Intanto Toro in vantaggio, gol di Iago Falque al quarto d'ora, bel sinistro dopo un'azione personale, quarto gol in campionato fin qui per Iago Falque. Oh, saluto Ottavio Bianchi, mister, buonasera. Buonasera, buonasera. Ha parlato metà conferenza di Totti, io credo prevedibile sia un po' anche forse il grande limite di Roma, del suo ambiente. Ma direi che con le chiacchiere non vinci, eh. Poi si sentono delle cose che onestamente sono incomprensibili. Io sono abituato a vedere il calcio: giochi meglio, se giochi bene in campo si valuta la prestazione, fuori c'è il calcio troppo parlato e sicuramente ti crea più difficoltà del solito. Ma ha ragione Spalletti quando dice: voi dall'esterno giudicate i gol e gli assist, io ho altri mille parametri e vi assicuro che negli altri mille parametri, insomma, serve equilibrio. E quindi tradotto, non lo dice ma lo fa capire chiaramente, ad esempio per una partita come sarà Roma-Inter, intensa, tosta anche fisicamente, Totti non è più pronto per fare il titolare? Ma sicuramente l'unico che sa valutare, sa misurare lo stato di forma della sua squadra, ma non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo tattico, mentale, della disponibilità, è solo l'allenatore. Veramente bisogna rispettare il ruolo dell'allenatore, e lui ci vive quotidianamente, ore e ore con i giocatori. Noi dal di fuori possiamo solo dire: questo per me oggi ha giocato bene, quell'altro non ha giocato bene. Ma andare a sindacare il perché, per come c'è stata una scelta, veramente non lo ritengo giusto. Rispetto sempre l'opinione dell'allenatore. Ma a lei è mai capitato di avere una moglie un po' ingombrante da gestire, come è stata Ilari certamente nell'ultima settimana? Ma guardi, io sono di un'altra generazione. Anche Ottavio Bianchi non è che ha avuto giocatori poco facili, insomma, da gestire. Un certo Maradona non era certamente semplicissimo. Ma anche gli altri, no? Insomma, c'erano delle regole, il rispetto delle regole. Io ho sempre rispettato tutti, dal massaggiatore al magazziniere, al presidente, ai giocatori, e chiaramente volevo la stessa identica contropartita. Non è che poi funziona mia moglie, i miei figli e mia moglie non sono mai venuti una volta a vedere una partita di calcio. In tanti anni. Invece adesso è cambiato, dice tutto. Le dice tutto. Io, la distinzione era netta, io facevo un lavoro come lei fa il suo, l'avvocato fa il suo, il macellaio fa l'altro, ma non distinguevo, facevo onestamente, tentavo di farlo con la maggior dedizione possibile, ma poi una volta arrivato a casa c'erano altri problemi, altre amicizie, altri interessi, vai a mescolare. I due piani. Intanto sempre i risultati sono quelli che vi abbiamo raccontato prima. Tra pochi istanti torneremo anche a San Siro dal nostro Dario Ricci. Milan 1 Sassuolo 1, siamo nel 20° minuto, il Torino che sta vincendo 1-0 sulla Fiorentina per il gol di Iago Falque al 14°. Ottavio Bianchi, chi sta peggio tra Spalletti e De Boer, visto che questa sera si trovano due che hanno trascorso gli ultimi giorni abbastanza sulle montagne russe? Ma l'allenatore dell'Inter è la squadra è in piena costruzione, non solo la squadra ma anche la società, e lei mi insegna che se non hai una società collaudata dietro le spalle puoi solo vivere la giornata, e questo è proprio è chiaro. Io ne ho vissute di queste situazioni praticamente tutta la mia carriera da allenatore, perché ho sempre avuto squadre, che società che erano in difficoltà o di cambio di gestione o difficoltà economiche o gestionali e tutto questo. L'ultima cosa che mi preoccupava era fare l'allenatore. Solo a Como ho potuto fare l'allenatore al 100%. Ma anche nel grande Napoli? Cioè, sicuramente, quando sono andato a Napoli mi hanno ingaggiato dopo Italo Lodi, ha insistito molto, ma perché l'anno prima con quella squadra aveva giocato per non retrocedere, non è che sono andati in una squadra con tutti quei campioni e con una leggenda come Maradona, perché Maradona è indiscutibile che sia faccia parte ormai della leggenda del mondo del calcio, però l'anno prima i risultati dicevano che il Napoli ha giocato per non retrocedere per molto tempo e il piccolo Como era davanti. Questo vuol dire che bisogna stare attenti sempre. Sì, che non sempre il lavoro sul campo è quello che prende la maggior parte del tempo. A proposito, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Ottavio Bianchi del Napoli caduto oggi a Bergamo, e anche delle parole di Sarri, le abbiamo sentite prima. La Juve fa un altro campionato, noi non ci dobbiamo nemmeno pensare, dobbiamo crescere, siamo giovani. De Laurentiis, mi pare di aver capito nelle ultime settimane, ha fatto chiaramente capire di avere un'opinione diversa sulle potenzialità della rosa messa a disposizione. No, a me il Napoli, a parte oggi, comunque ci sta, mi è sempre piaciuto. Non dimentichiamo che la Juventus fino ad oggi non ha fatto delle grandi prestazioni. Mi sembrava un organico decisamente importante che può competere in tutte le situazioni, ma appena sbaglia anche la Juve, se non fa giocare i giocatori migliori che ha e nel ruolo dove si esaltano al meglio, anche loro sono in difficoltà, perché vedi Dybala l'anno scorso all'inizio non giocava, come è entrato ha acceso la luce. Oggi, guarda caso, hanno giocato Pjanic, ha giocato Higuain e la situazione è cambiata, è migliorata. Ottavio, le chiedo un minuto di pazienza, andiamo a San Siro perché c'è qualcosa di importante da raccontare. Dario. Sì, c'è un gol del Sassuolo annullato, però con un bel brivido per la curva milanista, perché l'arbitro guida ci ha messo qualche secondo prima di annullare la rete di Ajapong, che c'è stato un cross dalla destra, il pallone è arrivato sul secondo palo, tutto solo Ajapong ha infilato, sembrava in un primo istante di testa, però Donnarumma ha protestato immediatamente. Guida prima ha segnato la rete, poi evidentemente si è consultato via microfono con l'assistente di porta e quindi ha annullato, ammonendo anche l'attaccante del Sassuolo. Stiamo vedendo adesso nel replay, proviamo a ricostruirla insieme, Dario. C'è questo traversone, Ajapong si abbassa, colpisce la palla di testa, la palla sbatte per terra e poi va sul suo braccio, e a quel punto prende la deviazione decisiva ed entra in porta. È gol di mano da annullare, però se posso permettermi, secondo me non c'era assolutamente nessun tipo di volontarietà, cioè non ha cercato di fare la furbata Ajapong, per cui credo che il cartellino giallo sia un po' gratuito. Sì, questa è la dinamica, effettivamente, chiaramente, però il giocatore ha immediatamente esultato, forse anche questo un po'. Ecco, forse è stato punito questo. Ricordiamo anche Giovanni che oggi esordisce qui a San Siro, così come a Torino, la VAR, no? La prima sperimentazione in campionato della Moviola, di fatto in TV, e quindi c'è subito materiale editabile, direi. Sì, anche se in questo caso sono stati sufficienti quelli in campo. Grazie Dario, torniamo da te. Per chiudere con Ottavio Bianchi, se si è dato una spiegazione sul perché l'Inter cambi faccia in maniera così violenta tra Europa e campionato, tra partite che contano e partite che forse qualcuno immagina che contino niente. Non è che immagino, non c'è ancora un'impostazione, non c'è ancora, a parte che l'allenatore deve capire un po' in che situazione, in che società, in che ambiente è, giocatori tutti stranieri, difficoltà di dialogo, una mentalità diversa, vengono preso la squadra così all'improvviso, insomma, veramente l'Inter è giustificabile le difficoltà che ha. E poi non dimentichiamo che tutti gli stranieri sono anche, alcuni sono stranieri non di prima fascia, anzi direi moltissimi non sono di prima fascia, e pretendere da un momento all'altro che questa squadra sia come il Milan, sia come la Juventus o il Napoli, mi risulta difficile. Insomma, l'Inter ne avrà ancora di situazioni da migliorare. Sì, c'è ancora parecchio lavoro da fare, del resto ed è normale che si è condannata cambiando l'allenatore il 10 agosto. Certo, si è condannata a una stagione così. Grazie Ottavio Bianchi. Prego, di nuovo. Grazie Ottavio Bianchi, sì. Palo di Kalinić intanto, sì, gioco fermo. Sì. Voglio sempre vincere, sì, e con filosofia passo a passo, passo passo, sì, abbiamo facendo un progetto. Vabbè, intanto questa sera, questa sera dovete vincere a Roma, da qui si passa. C'è Roma, aspetta che c'è, aspetta che c'è Enrico da Monza. Enrico, eccoci, sì, 800240024, prego. Sì. Sì. Buonasera, grazie della convocazione. Sì. Lui è il nostro Andro Mercù, il nostro Frank De Bull. Prego Enrico. Mi riagganciavo un attimino a quello che stava dicendo lei prima, ma a proposito di questo discorso della moviola in campo, chi controlla il controllore? Nel senso, chi ha poi potere comunque di decidere sull'episodio che viene preso in considerazione? Perché secondo me si corre comunque il rischio che chi decide venga poi additato di decidere male da una parte o bene dall'altra. Perché accadrà sicuramente, però perdonami Enrico, ci sarà comunque il conforto delle immagini, cioè sarà più complicato pensare, magari ci saranno situazioni che rimangono borderline di difficile interpretazione, ma nella stragrande maggioranza dei casi credo, da quello che ho capito, che la moviola in campo servirà per andare a sanare degli errori evidenti che in campo sono sfuggiti. Enrico. Certo, certo, no, più che altro perché tante volte ci sono episodi, facevo questo piccolo ragionamento, ci sono episodi che visti, rivisti, triti e ritriti non arrivi mai a un parere univoco, cioè ognuno poi la va comunque a pensare a suo modo, per quello mi ponevo questo piccolo... Sì, ma è un rischio, ma io credo che anche per questo sia giusto che ci sia una fase di sperimentazione in cui, e lo ripetiamo fino allo sfinimento, non accade nulla in campo, perché gli arbitri sono completamente scollegati da chi osserva la moviola al video, proprio per evitare qualsiasi tipo di contaminazione in Italia. In Olanda sono avanti di 2 anni e già fanno qualcosa invece che interviene sul risultato. Prima del meteo, San Siro, Dario Ricci. 28esimo di gioco, ancora 1-1, anzi scusa Giovanni, ricordo il tabellino, al 9° Bonaventura, il tiro dal limite con deviazione di Acerbi, all'11esimo il pareggio di Politano che batte Donnarumma dopo un grossolano errore di Abate in retropassaggio. Nessuna emozione da segnalare, però fasi tattiche molto interessanti per gli appassionati del tema, perché il Milan ruota la palla con nel tentativo di trovare varchi, perfetti movimenti difensivi del Sassuolo con De Frel che di fatto è in marcatura, in schermatura su Montolivo, e quando la palla non arriva a Montolivo l'azione del Milan non prende quella velocità di tocco che poi invece assume una volta che il regista ha lasciato la palla, e si crea qualche situazione potenzialmente pericolosa. Ma veramente adesso un bel cross al centro e bravo Gomez ad anticipare proprio De Frel a salvare in calcio d'angolo. Allora, 29esimo, seguiamo il calcio d'angolo, Dario, prima di andare al meteo. Dario. Sì, calcio d'angolo per il Sassuolo, sul pallone va Pellegrini che al 26esimo ha impegnato Donnarumma con un bel sinistro dal limite, bravo il portiere milanista a bloccare in 2 tempi, gli si avvicina ora Politano che si incaricherà della battuta, le torri degli emiliani si spostano a centro area, chiaramente a Jepong pure a supportare Acerbi e lo stesso Antei, ecco parte la parabola, respinge con i piedi Donnarumma, la palla arriva a Bacca che prova a partire in contropiede, conquista un fallo al limite dell'area, niente di fatto, 30esimo di gioco 1-1. Giovanni. C'è il meteo, torniamo subito. Io comando a casa mia quando c'è la mia moglie, se no comanda lei. Tutti convocati. tutti convocati. Mi hanno chiesto se è per quello. Beh, sai, è sempre un onore, un privilegio essere presidente dell'Inter, però non so cosa rispondere. Tuttavia si era trovato a fare anche lui, cercando anche di fare acquisti nelle difficoltà, fare acquisti. E difficoltà perché il giocattolo forse era più grande di quello che al primo momento, visto il valore di passaggio, gli era sembrato. Ma anche lui ha fatto il suo. Devo dire, adesso con loro mi sento abbastanza fiducioso perché il loro desiderio di far bene è serio, è concreto, è forte. Quindi e credo che sono già partiti bene e penso che continueranno così. De Boer, vedremo un po' come va lui e se lui va bene rimane lui, poi Simeone c'è tempo, è giovane per arrivare un giorno o l'altro all'Inter. Questo è Moratti sull'ipotesi di tornare presidente, intanto Fiorentina vicinissima al pareggio con un colpo di testa di Kalinic parato con una specie di bagger sulla linea di porta dal portiere del Torino Hart. C'è Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, che ringrazio per l'intervento e saluto. Paolillo, buonasera. Buonasera. Vado solo 30 secondi a San Siro per l'aggiornamento dal nostro Dario Ricci. Dario. 35esimo di gioco, ancora 1-1 tra Milan e Sassuolo. Due minuti fa però stanno facendo un bel pasticcio Paletta e Donnarumma nello scambiarsi con un po' di leggerezza il pallone con i piedi. È intervenuto Politano che quasi ha soffiato il pallone al portiere milanista, che con una spallata giudicata da guida regolare, e anch'io sono della stessa opinione, è però riuscito a liberarsi della pressione dell'attaccante emiliano e a rinviare di piede. Sì, non un Milan straordinario e soprattutto a sorpresa un Milan che sta soffrendo il pressing del Sassuolo, che sulla carta tra assenti e impegno di Europa League doveva essere la squadra più stanca delle due. Torniamo all'Inter con Ernesto Paolillo. Che fa Moratti se Suning gli chiede davvero di tornare? Ma quello che fa non è ancora annunciato e lasciamo che si pensi e lo annunci lui. Io mi auguro veramente che rientra, dalle dichiarazioni l'avete sentito, ne ha una gran voglia e può dare la svolta, l'ha detto lui stesso. Suning ha voglia di fare le cose in maniera estremamente vera, sincera, decisa. A Moratti piacciono le grandi sfide, le cose fatte bene, per cui quello che lui non è riuscito a fare con Torino può farlo benissimo con Suning, a condizione ovviamente che Torino esca. Sì, perché evidentemente non si può pensare di fare una cosa a tre teste. No, assolutamente no, ma poi abbiamo visto che in tutto il periodo in cui Torino ha gestito l'Inter non ha ascoltato minimamente i consigli di Moratti. C'è qualcuno che in maniera anche un po' maliziosa dice era tutto scritto sulla carta già tre anni fa. Cioè, no. Toir sembrava serviva solo per traghettare l'Inter da Moratti a Moratti con i soldi cinesi. Assolutamente no, questo lo escludo pienamente, lo dimostra anche quello che è apparso oggi su qualche giornale. Toir che si fa fotografare, che fa vedere a Bassetto e accanto a Suning, dimostra che lui sta tentando disperatamente di non uscire o di fra virgolette vende a cara la sua pelle per l'uscita. Ecco, ma Toir non ha in mano il suo destino, in fondo le azioni sono sue, tra l'altro ha anche delle prelazioni, ha per statuto dei diritti di veto, insomma ha una condizione che è molto simile a quella di Moratti tre anni fa, ovviamente a parti invertite. Ma ci sono anche le condizioni che ha Suning. Suning ha sicuramente in mano anche lui le sue condizioni di poter far uscire e tuire a determinate condizioni che possono essere di un certo tipo con l'Inter che va male, con un certo premio con un Inter che va bene, ma non mi sembra sia il caso. Voi pensate che sullo stadio, se i conti sono giusti, quelli che sono trapelati hanno perso 15 milioni di euro su 19 milioni di fatturato. No, mi sembra che sia un grande risultato. Sì, lei ha sempre dato un voto negativo alla gestione di Toir. Esatto. Immagino non abbia cambiato idea. 15 milioni su un fatturato di 19, bisogna essere proprio degli artisti per poterlo fare. Ma quindi Toir che cosa è stato? Ma Toir ha pensato di prendere in mano l'Inter e di fare affari in Indonesia, nel mondo asiatico, col brand Inter, dimenticando però totalmente la gestione della società, affidandole a manager di cui non discuto il valore, ma che lontani e abbandonati, quindi andavano ognuno per la propria strada. È difficile mandare avanti una società senza colloquiare quotidianamente o quasi col presidente, e le distanze, i fusi orari poi impedivano qualsiasi tipo di contatto facile, e la squadra non è andata bene né sotto il profilo sportivo né sotto il profilo commerciale. Basta vedere il fatturato, quanto sia collato, e non solo quello della biglietteria ma anche quello commerciale. E questo lo dice lunga. Intanto ancora Fiorentina vicinissima al pareggio, questa volta con Sanchez, una specie di rigore in movimento di sinistro, palla un po' strozzata che ha sfiorato il palo alla sinistra di Hart. Ho una domanda che è arrivata al 349-238-6666 da girare a Paolillo, prima però voglio andare 30 secondi a San Siro al nostro Dario Ricci. Incursione di Abate sulla destra, il cross al centro, respinge la difesa del Sassuolo. Un Milan che in questi ultimi minuti, quest'ultimo paio di minuti, Giovanni, ha sviluppato due belle azioni sulle fasce. Prima a sinistra con la triangolazione tra De Sciglio, Bacca, ancora De Sciglio, il cross al centro all'altezza del dischetto del rigore, il destro dell'attaccante colombiano però decisamente centrato. Un minuto dopo dall'altro lato sulla destra Abate ha scambiato con Suso, è arrivato al cross e mentre il pallone stava proprio arrivando sulla testa di Bonaventura, che avrebbe a quel punto schiacciato a botta sicura, bene, il centrocampista del Milan è stato anticipato dal suo stesso compagno Luis Adriano, che non si era accorto della dinamica dell'azione. Un Milan che sta trovando appunto punti interessanti, allargando un po' le maglie in senso orizzontale della difesa del Sassuolo. Risultato però ancora sull'1-1 quando è il 41esimo di gioco. Sì, 4 minuti alla fine di questo primo tempo e invece 1-0 per il Torino sulla Fiorentina, e siamo un minuto avanti. Mancano 3 minuti in questo momento alla fine di questo primo tempo. Domanda arrivata al 349-238-6666. È d'accordo o no Ernesto Paolillo con le parole che oggi Squinzi sulla Gazzetta ha riservato ai soci cinesi in assoluto? Parlava del Milan, ma ha esteso il tema anche all'Inter, cioè porteranno anche i soldi ma mancherà sempre la passione. Infatti Massuning, che è abbastanza intelligente ed è un imprenditore che vuole fare le cose seriamente, per portare la passione cosa ha pensato di fare? Di mettere al vertice della società Moratti, l'ha chiesto Moratti, e sulla passione di Moratti per l'Inter credo non ci siano discussioni, neanche lontanamente. Quindi è vero quello che dice Squinzi, è vero anche che Suning ha capito perfettamente. Chi non metteva passione, purtroppo, era Torino. Questi qua non sono ancora arrivati, non sappiamo. Sì, poi ci sarà da vedere se i cinesi saranno capaci di fare quel lavoro commerciale sui mercati asiatici che ad altri non è riuscito, e che non è Paolillo automatico che possa riuscire. Ma non è impossibile. Cioè il conteggio, 200 che... milioni di tifosi, 200 milioni di magliette, 200... dobbiamo anche un po' uscire da questa logica. Bisogna uscire quella logica, ma non dimentichiamo che occorre fare un gran lavoro di un altro tipo. Con la digitalizzazione, con tutti gli strumenti che ci sono, e Real Madrid con quello che ha fatto con Microsoft lo insegna, quando dei propri tifosi o dei propri simpatizzanti, non solo dei tifosi iscritti, ma di quelli che si collegano via Twitter, via Facebook, via qualsiasi tipo di collegamento web, si riesce a sapere tutto in mille modi, con domande dirette, attraverso dei giochi, delle formule, dei test d'ingresso nel web e di andare, sono tutti clienti profilati, per dirla, sono tutti profilati da vendere lei al mercato. Sa meglio di me qual è il valore che si può prendere da uno sponsor e che uno sponsor riceve dalla società, ricevendo tutte le profilazioni, sapendo che di quei clienti sa tutto e può fare subito operazioni commerciali, e quindi è facile diventare sponsor e pagare, ma non per il nome sul backstop o il nome a bordo campo, per pagare sulle profilazioni dei clienti, è quello che ha valore. Certo, acquistare un grande database fidelizzato, dai, così esatto. abbiamo parlato come quelli seri. Paolillo Oltraffico, la saluto, grazie. La saluto, arrivederci, buonasera. Grazie ad Ernesto Paolillo, ultimi due minuti a San Siro, 1-1 tra Milan e Sassuolo, ultimo minuto a Torino, 1-0 per il Torino sulla Fiorentina, Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Tutti convocati. Really, Sebastian is crazy. Sebastian è stato molto lucido, prima di tutto si è scusato con la squadra e poi mi ha detto, sai, combattevamo spalla a spalla con Max e nel momento in cui mi sono trovato alla prima curva, Rosberg ha seguito la sua traiettoria, io ero molto veloce, l'ho toccato, Max ha stretto un po' e quindi è stato un susseguirsi di toccate. Lui ha detto non voglio accusare nessuno, né Nico né Max. Stamattina ci siamo decisamente divertiti per il Gran Premio di Malesia. Vettel partirà con retrocessione di 3 posti sulla griglia del Gran Premio di Suzuka nel prossimo weekend per lo scontro alla prima curva con Rosberg. Scontro che ha rovinato anche la gara di Rosberg, che però alla fine esce vincitore, nel senso che arriva terzo dietro Ricciardo e Verstappen, ma Hamilton rimane appiedato dallo scoppio del suo motore e quindi in classifica ora è staccato di 23 punti. Questo è il riassunto della gara. Saluto Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio. Buonasera, ciao. Ti chiedo 30 secondi perché abbiamo i finali del primo tempo. Il Torino vince 1-0 con la Fiorentina, gol di Iago Falchi al 14esimo, invece il finale da San Siro con il nostro Dario Ricci. 1-1 alla fine del primo tempo, Giovanni, ricordo i marcatori al 9 Bonaventura per il vantaggio milanista, decisiva la deviazione di Acerbi per battere il portiere del Sassuolo Consigli, e Sassuolo che ha trovato il pareggio 2 minuti dopo con Politano, bravo ad approfittare di un errore, di un retropassaggio errato di Abate e poi trovarsi a tu per tu con Donnarumma e siglare appunto l'1-1. Grazie Dario, torniamo alla Formula 1. Da dove partiamo Giorgio? Partiamo da Hamilton, che nemmeno troppo velatamente ha detto non mi vogliono più far vincere, insomma ha fatto quasi capire che c'è un sabotaggio Mercedes nei suoi confronti. Beh, questo è amarezza da dopo una giornata così, era la giornata in cui lui aveva in mente di ritornare davanti, succede che il motore salti. Secondo me ci sta anche che sia dietro in una stagione come questa, o meglio, ci sta che per una volta Rosberg sia davanti, perché in qualche modo, pur con una giornata fortunata come questa, insomma, mostra una bellissima tenuta, anche oggi ha ricucito con una pazienza e una determinazione bellissima, secondo me una sfortuna che ha patito pure lui. Io non, cioè, i complotti, queste cose qua dentro una squadra dopo che ha vinto 2 mondiali, secondo me non stanno. Sì, Rosberg è feroce oggi, è stato il che mi fa anche pensare che mentalmente sia più forte di Hamilton in questo momento, non lo so, ma è dal ritorno delle vacanze che è così. Ma insomma è difficile dire, certamente vivere con uno così fortifica, Anche Ricciardo, se vogliamo, che ha vinto oggi contro una che ha detto no, non faccio passare questo qui. Cioè entrambi, Rosberg e Ricciardo, hanno 2 compagni che renderebbero la vita molto difficile a tantissimi e ne vengono fuori. Quindi secondo me Rosberg ha imparato tantissimo in questi 2 anni e può anche essere meritatamente che ce la faccia quest'anno. Insomma, è riuscito già a resuscitare una volta, perché tutti pensavamo al ritorno di Hamilton, ecco adesso, solita storia, invece no, e quindi secondo me bravo lui, bravo Ricciardo. Intanto do una notizia, il Nizza, partita praticamente finita, sta vincendo 2-1 sull'Orient ed è primo da solo in Ligue 1 in Francia. Il gol decisivo l'ha segnato Balotelli all'86esimo, partita che era complicata contro la penultima in classifica, ma Balotelli poi è stato anche espulso. e quindi cercheremo di capire perché sia stato cacciato dal direttore di gara. Però Nizza 2, Lorient 1, e Nizza che in questo momento è primo in classifica con l'ennesimo gol di Balotelli, che poi ha preso l'ennesimo cartellino rosso insultato, della sua... Mi hanno insultato. Ti hanno insultato. E io non torno in Italia. Poi vediamo. Con Giorgio Teruzzi invece, cosa possiamo dire di Sebastian Vettel? Oggi ha sicuramente sbagliato. Arriva bene, dice... L'ha fatto però perché vuole metterci di suo ed è un segno di vitalità. Lauda no. Dice è in crisi. Io sono più da quella parte lì. Cioè, se vuole metterci di suo, non si mette nella condizione di farsi sostenere dalla squadra, una squadra che ha bisogno di uno così. Cioè, non stiamo parlando di Verstappen, che è un ragazzo che fa degli errori di rue. Stiamo parlando di uno che ha vinto 4 mondiali, deve fare il leader un po' troppo spesso. Lui ha 8 punti di ritardo da Raikkonen nel mondiale, secondo me questa è la foto dell'anno, con tutto il rispetto per Raikkonen, insomma non ci siamo. Secondo me ha un'insofferenza e un'insoddisfazione fonda, che viene da un'abitudine a vivere in un altro modo e a gareggiare in un altro modo e a vincere molto di più, e qualche segno di frustrazione e debolezza di troppo, secondo me. Cioè, non ci siamo, cioè, se lui è il primo pilota della Ferrari, una Ferrari che ha così bisogno di uno come lui, cioè di un pilota che porta a casa il più possibile, insomma, è un'annata un po'... critica, mi pare. Sì, decisamente, ma del resto credo bastava guardare la faccia di Arriva Bene dopo la gara per capire che le cose in Ferrari non vanno bene e che il giudizio è pesantemente negativo a dispetto di quello che viene detto, a dispetto anche delle rassicurazioni che vengono date sul lavoro che si sta impostando per la prossima stagione, dove cambieranno molte regole, ma dove la Ferrari onestamente sembra ancora partire in ritardo e partire dietro. Grazie Giorgio. Volevo dire che c'è un giallo. Vai. Cioè, le condizioni di Rosberg e Ricciardo, che hanno bevuto lo champagne da quella scarpa lì dopo 56 giri a 50 gradi, le condizioni fisiche secondo me sono tutte da vedere per la settimana in corso. Tutte da verificare, sì, perché si corre subito, il famoso back to back, si corre subito in Giappone e quindi è una bella maratona anche fisica. Grazie Giorgio Teruzzi. Un abbraccio, buona volta. Grazie Giorgio Teruzzi, ha vinto 2-1 il Nizza e quindi è primo finalmente in classifica. Finalmente mi dedicate un poco di spazio, sì, allora adesso possiamo 15 parlare. 15 secondi. Possiamo parlare della Ligue 1, se volete vi parlo di tutto della squadra del Nizza. 10 secondi. E l'espulsione quest'oggi non hanno capito assolutamente niente, perché io non ho sbagliato, ha sbagliato l'arbitro, hanno sbagliato loro, io non sbaglio. E comunque in Italia io non ci tornerei più. Vabbè, ma adesso possiamo parlare della gigante. Lo spazio te l'abbiamo dato, finalmente facciamo adesso domani dopo fare il GR delle 14. Io ringrazio il vice Falzone, in redazione, Paolo Corleone e Filippo Acureggi in regia. Non è vero, Mario, dai. Era il nostro Andro Mercù. Torniamo domani dopo il GR delle 14. Capuano, vengo lì.